Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui alle 8:20, 4 maggio. Tra i santi di oggi, San Floriano, che è patrono dell'Alta Austria, soldato romano, martire, studio Diocleziano, poi coi soliti miei nomi diffusissimi, c'è per la terza volta dall'inizio dell'anno, e tremo perché c'è una connessione evidentemente con la notizia di genere, un altro San Secondino. Ma quanti, ma dai, ma quanti San Secondini? È un San Terzino, sto Ma lo so, perché tutti quei secondo, comunque molti che si chiamano secondo finirono martiri, comunque San Secondino ce ne sono tanti. Poi Agapio, Santa Afra di Brescia, Cassiano e Terredo, che era un re di Mercia. E lasciatemi dire che per me questo è un giorno particolare, perché si commemora, ohimè, la tragedia di Superga, il grande Torino. Eccolo lì, è vero. Beh, ma non solo per te che sei granata, dai, no, per tutti, no, in particolare, sportivi. Però per tutti gli sportivi è stato, ohimè, una brutta data. Che vuoi fare? Eh sì, il Torino di Superga. Allora, cari ascoltatori, dai, ve la poniamo la domanda, tanto è inutile, anche se sotto traccia c'è un po' di silenzio, qualcuno non ha il coraggio di dirlo all'interno del Partito Democratico, qualcuno invece lo butta lì, è un assedio della magistratura, questo è quello che temono all'interno del PD dopo l'arresto del sindaco di Lodi. Sono quindi in tutto e per tutto uguali a Berlusconi? Però non l'hanno detto, appunto. Però sotto traccia qualcuno racconta su Repubblica che, mentre Renzi mantiene una prudenza, una linea di prudenza, però qualcuno dice, insomma, la magistratura ci sta un po' stringendo d'assedio, no? Sono effettivamente negli ultimi tempi un pochino tante le vicende giudiziarie che ricordano. Insomma, caso o necessità? Insomma, a me di tutta questa storia, non so Oscar cosa ti ha colpito, mi ha colpito la storia della la gola profonda, colei che ha parlato, questa dipendente del comune, che dice sono andata ai corsi anticorruzione. Mi hanno insegnato. E mi hanno insegnato che se c'è qualcosa che non va io dovevo denunciare. Ha denunciato. No, io dico bene, se questi sono i primi segni dell'attività ANAC, dell'attività anticorruzione, ben vengano, per quello che mi riguarda. Assolutamente, sì, poi bisogna vedere le accuse. L'accusa è quella di avere, insomma, pilotato un paio di appalti per le piscine comunali. Per le piscine comunali, per soldi, per voti. Vabbè, naturalmente noi ci troviamo il primo giorno con i verbali che inchiodano subito, lui, mentre col tecnico del comune sta tentando di truccare il formattare il PC. È ovvio che chiunque legge lì dice, vabbè, sei colpevole con le mani nel sacco, lo sai già e ti stai tentando. Ma questo cos'è? È un vizio della stampa italiana, cioè pubblicare stralci di verbale dell'accusa, che quindi, voglio dire, cosa uscirà da questi verbali? I verbali non sono depositati, possono uscire solo dall'ufficio del PM, appunto. Perché sai, la stampa, mettiamoci nei panni, ti arrivano, siamo il quotidiano di Pavia, io e te, ci arrivano questi verbali di Lodi, scusami, e non le pubblichiamo? Sì che le pubblichiamo, ho capito, ma non è che ti arrivano su una casella, no, ti arrivano, ti arrivano, però perché c'è anche qualcuno, no? Che è tenuto al segreto, che ero io, perché in questo caso immediatamente dal punto di vista popolare la sua indagine parte con una strepitosa forza a proprio vantaggio, no? Cioè leggere effettivamente dagli stralci del verbale dell'arresto il sindaco che dice formattiamo il PC, subito dà l'idea, capito, è colpevole, sta cercando di cancellare le prove, e poi in realtà si vedrà, vedremo queste indagini della PM Laura Siani e del procuratore Sara Mantovani. Vedremo quello che. Perché dici i nomi? No, dico sì, perché con un sospiro. Hai visto la foto? Sono due belle donne. Io non l'ho detto, se lo dice. Beh, sono due belle donne. Dalla foto sono due belle donne. Insomma, questo cosa c'è? Non facciamo, esatto. Esatto. Comunque 800 24 00 24, se volete chiamarci su quello che ti faccio sentire, Di Battista, senti, del Movimento 5 Stelle. Ormai non fa più notizia gli arrestati del Partito Democratico. Esiste una questione morale secondo lei? Esiste nel PD una questione immorale, lo vediamo ogni giorno. Insomma, posso ricordarveli: Trivellopoli, Mafia Capitale, Expo, Mose, Genovese, Francantonio Genovese arrestato. Insomma, e poi continuava ovviamente. Adesso è tutto campo di battaglia, caro ma sai, non è solo per le elezioni, è anche per il referendum, è anche per, cioè c'è un, io credo che si trema un crescendo fino al risultato del referendum. Sbaglierò, ma... No, non sbagli, guarda che oggi sul Messaggero c'è questa frase di qualcuno del PD anonimo che dice: quanti giorni mancano al referendum? 150, ce ne indagheranno 149, magari a Ferragosto si fermeranno per un giorno. Fanno una retata senza verbali. No, sì, purtroppo temo anch'io che sarà così. Tra l'altro, ieri sera mi è capitato di vedere Bersani che era un po' doppiamente seccato, perché il sindaco di in questione, come sai, era il coordinatore dei bersaniani locali, non dei renziani, e quindi la cosa gli seccava due volte, per così dire. Allora ci sono anche poi queste complicazioni interne, come sempre nella vita dei partiti, no? A seconda di quale sia la corrente a cui appartiene l'arrestato o l'indagato, le reazioni sono diverse. Questo dice lunga sul fatto che la politica non è capace di giudizi freddi. Comunque, a proposito e a parte la politica, c'è questa cosa sull'Unione Europea che ha un po' colpito. Allora Oscar Giannino prima di entrare ha detto: ma è possibile che ci facciamo riconoscere in tutto il mondo sempre come i tassatori? Cioè, se c'è una proposta politica italiana si legge, ma si legge non perché sia sbagliato, perché si traduce così: mettiamo una tassa, ragazzi. Mettiamo una tassa. Pazzesco. Vogliono mettere, questo si sta studiando, una tassa da 50 euro. Per 50 chi... sono pure tanti. 50 euro non sono pochi per chi viene in Unione Europea, per turismo. Perché? Perché prenditela con Roma, perché Roma vuole i soldi per il migration, non solo Roma, ma per gestire ovviamente le spese dovute al flusso di migranti. Naturalmente tagliare qualche spesa o reindirizzarla del mare magno non se ne parla, quindi cari però, stranieri, pagate. Sai che mi è arrivata una mail quando ho letto la segna stampa che dice: guardate che succede in molte parti del mondo, per esempio negli Stati Uniti bisogna pagare una tassa d'ingresso di 15 euro da anni, 100 euro per andare in Cina o andare in Russia o in nazioni africane. Insomma, niente di scandaloso, dice. Niente di scandaloso. Cioè, noi già ci abbiamo la tassa di soggiorno, se questo è quello che avete in mente per il turismo. Sì. Questa è una tassa in generale. Solo. Sì, appunto. È una tassa generale perché vogliamo di lì ricavare i soldi per i migranti. Non lo so, a me sembra che ci facciamo semplicemente la nomea di un continente assatanato di entrate pubbliche. Tanto dovrebbe succedere in tutta Europa, cioè perché è una decisione europea. Se viene assunta è una decisione europea, non solo ovviamente nel nostro paese. Pensa agli svizzeri. Quindi, esatto, infatti gli svizzeri ci hanno già chiamato preoccupati, dici: ma cosa vuol dire? Che anche noi, io vengo da Lugano, esatto, c'è gente che ci ascolta da Lugano, da Zurigo, da tante città svizzere, dice: ma come, che vuol dire? Vengo, di volta che barco un confine. E dal Vaticano? Potrebbe essere dal Vaticano? Potrebbe essere. No, potrebbe... quelli pagano direttamente in attici. Ecco, lo sapevo. Io anche ti ho inzigato. E tu ma subito... no, ma lo sapevi, dai, su. Ma ti pare, è tornato girone dall'India. Ma Papa Bergoglio, cosa devi aspettare per cessarlo questo processo a Nuzzi e a Fittipaldi? Deve dirtelo la Madonna in persona. È in realtà, non è ancora ridicolo. Tornato girone. Vabbè, non speriamo. L'annuncio c'è per la decisione. Però torna girone dall'India e il Vaticano continua a processare Nuzzi e Fittipaldi. Ma per favore, Papa, su, Papetto, facci questo bel sorpresina. Ma tu sei un cardinale e ti permetti di chiamarlo Papetto? Ma Papetto è un po' argentino. Ma è il tuo Papa, ma è il tuo Papa. Vabbè, sentiamo cosa ci dice Giorgio che ci chiama da Pisa. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a tutti voi. Volevo fare una piccola domanda: ma in Toscana gli amministratori locali sono tutti santi o la magistratura non si è ancora svegliata? E lei che dice a questa sua domanda? Come si risponde? Ma io non credo che siano tutti santi, non lo so. Se tanto mi dà tanto, una percentuale anche qui di diavoli ci sono, E quindi dice che sono i magistrati che sono forse un po' allineati con gli amministratori? No, allineati no, forse hanno altro da fare, Però Giorgio, non lo so, siamo in Italia, i magistrati toscani si svegliano, quelli campani cosa fanno, i pugliesi, Abbiamo un po', Oscar, la percezione sempre che siano, adesso lo dico, un organismo che possa intervenire a nostro piacimento. Sì, come se fosse a comando. No? Esatto, insomma, non lo so, in teoria dovrebbe. Però dove ci sono i reati. Ecco, una cosa mi sembra evidente, il problema è che evidentemente gli estremi dei reati ci sono, sono diffusi, la politica, l'amministrazione dice una cosa, ne fa un'altra, questo poi resta il fatto di fondo. Vedi che ci dicono che la tassa di soggiorno c'è anche in alcune zone degli Stati Uniti, insomma questa cosa della tassa di soggiorno, cioè, o comunque della tassa di ingresso. Ma ho capito, e quindi, cioè, ma perché noi dobbiamo sempre fare gli esempi peggiori? Noi sommiamo gli esempi delle cose più anomali del mondo per dire le voglio anch'io, sì. Ma se per esempio ci volessimo contrattare di sicuro, dice, le leviamo le tasse invece che aggiungere ogni tanto, dico ogni tanto, no, aggiungiamo. Effettivamente l'idea di trovare soldi mettendo 50 euro a coloro che fanno ingresso nell'Unione Europea, che ne so, arrivano dall'Australia per turismo, ma 50 euro poi non sono pochi, ma scusate, 50 euro ragazzi, sono una bella cifra, per carità. Poi uno viene in una famiglia di tre americani, sono 150 euro. Voglio dire, oggi da anni, come sappiamo perché anche noi pratichiamo questo fenomeno, ne siamo stati parte tutti quanti noi, cioè, voglio dire, si è sviluppato turismo di massa aereo internazionale grazie al fatto che la gente arbitraggio guarda con attenzione su internet le tariffe aeree, che sono molto diminuite, e cui 50 euro di differenza e la decisione di non ci vado in quel posto, lo sappiamo tutti che è così, no? Allora non è che uno dice, per esempio, cosa volete che cambi 50 euro in più, ma state scherzando. Invece no, cambia come. Federico invece ci chiama da Novara. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno a voi. Ma semplicemente volevo dire, per la questione che sta un po' dibattendo in queste ore sui giornali, ma io penso che Renzi era partito con l'idea di rottamazione, aveva un po' così convinto tutti nelle intenzioni, nei fatti questo non sta avvenendo. E io penso che un partito in generale debba fare un filtro prima suo interno e poi eventualmente essere aiutato esternamente dalla giustizia. In realtà noi stiamo assistendo da anni proprio il contrario, quindi è saltata completamente sia la questione etica che morale. Cioè Federico, lei dice sono i partiti, questa è l'annosa questione, che è un po' come dice Davigo, però lei la pensa un po' come Davigo, cioè invece che i magistrati sono i partiti a dover in qualche modo porsi una questione. Penso che sia una questione innanzitutto di fiducia e di buonsenso, poi ovviamente sta nelle persone che rappresentano e che ci dovrebbero rappresentare, ovviamente dimostrare... di meritarsi la fiducia. Questo sì, attualmente però, questo non sta succedendo. Io dico una cosa, Oscar, non so se sei d'accordo, cioè non è neanche facile, mettiamo il caso, sto dicendo che la questione del sindaco di Lodi sia una questione effettivamente ha fatto qualcosa che non va. Cioè, ma un partito che lo seleziona, lo fa candidare, riesce a scoprire prima che un sindaco poi no, arriva a poter pilotare un appalto, cosa che non sappiamo se ha fatto. In base a che cosa si fa un esame preventivo? Questa opinione la possono esprimere due tipi di persone. Uno, la stragrande maggioranza, quelli in buona fede, cioè che non hanno un'esperienza di partiti dentro. In buona fede possono pensare che ci sia un processo di selezione rigoroso, eccetera. In buona fede, però sbagliano, perché nei partiti non funziona così. Nei partiti funzionano per cordate, non solo nei partiti, perché non è che nei giornali, nei posti, nelle imprese sia molto diverso, però nei partiti in particolare, dove conta il potere, potere e consenso, l'ascesa, l'ingresso dei personaggi, l'assenso alla candidatura in questo o in quel posto è distillato dall'alto secondo regole di cooptazione. Altro che, non sono gli altri che fanno gli esami, vanno a vedere. Sì. Quindi alla tua domanda la risposta secca è no. Tanto è vero che io, a dire la verità, non ho mai capito fino in fondo questa specie di nostalgia per un tempo mitico in cui ci sarebbero stati dei partiti che questa selezione e questo fatto male ce l'avevano. No, ci sono stati dei tempi limitati nella storia italiana in cui i partiti erano guidati da leader con delle inequivocabili attitudini, tra virgolette, morali. Può essere De Gasperi, può essere Berlinguer, capisci? Ma stiamo parlando di periodi limitatissimi, perché poi nella storia di quei partiti, da una parte come dall'altra, il consenso, il potere, le cordate prevalgono. Ma c'è quando poco anche, da fare. Anche ci fosse una selezione, un esame, ma come lo stabilisci? Un l'esame sindaco di onestà, tu no? diventi sindaco, piloterai un appalto? Che ti dico di sì? Sono cretino? Oh, diciamo, di no, ma magari penso di no. Poi diciamo le cose possono nell'ambiente cambiare. L'ambiente si sa se un sindaco questa cosa le fa o meno. Ma il problema è che a quel punto il meccanismo di cooptazione dall'alto diventa un meccanismo di copertura dall'alto. Sì. È inutile. Però si sa poi se ha già una carriera politica, se uno per esempio è un sindaco di 30-35 anni. Certo, dall'inizio non lo puoi sapere, però il budino va provato per capire se è buono. L'amministratore buono lo puoi capire solo dopo che amministra, perché prima ovviamente non lo puoi sapere. Luigi ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo fare una battuta, volevo ricordare agli amici del PD che il PC in realtà lo hanno già formattato, adesso forse gli conviene formattare anche il PD. Ah, lei dice il PCI l'hanno formattato, non il PCI. Anche se oggi sono un po' rallentato, ci sono arrivato. Il PCI l'hanno formattato, adesso dovrebbero formattare il PD. Noi invece parlavamo della formattazione proprio del personal computer. Eh sì. Vabbè, la battuta ci sta, caro Luigi. Comunque, vedi, qualche effetto alla fine queste indagini lo esercitano. Chi contesta non è ancora ministro, Carrai forse sa. Alta. E qualche segnalino comunque. Tu dici che anche il rallentamento, Chicco Testa veniva dato per ministro domenica, sabato, come dato per certo, adesso si è un po' rallentata. Si è un po' rallentata, del resto capita una cosa strana nella politica italiana, ho visto che ieri questo entusiastico incontro tra Brunetta e la Camusso, insomma, capisci, cioè, ci sono le stranezze, sono veramente singolari. La stampa, sì, giustamente, questa, secondo me, scrive un articolo un po' divertito, perché di fronte a questa convergenza contro lo storytelling renziano, contro l'ottimismo economico renziano, e naturalmente la convergenza anche nel no alla riforma costituzionale. Ma la riforma costituzionale, posso capire, si può essere uniti nel no da posizioni molto diverse, ma tu capisci che Brunetta e Camusso, che vanno d'accordo sull'economia, sì, allora esatto. Io dico va bene, tutto è possibile. Avranno parlato, non so, di tornelli, ti ricordi, ma, i tornelli, esatto, fannulloni, ma, dipendenti pubblici. Miracoli avvengono. Comunque ci fa sapere Massimo da Sassuolo che a Zanzibar devi pagare $100 entrare e 98 a uscire. Perché uscire? 98? Che è come la cauzione di un rapimento, praticamente. Fate cifra tonda, amici di Zanzibar, 100 e 100, perché 100 e 98? Ma roba da matto. Vabbè, comunque succede. Non so, molte non vi facciamo interessa. L'Italia come Zanzibar, quindi. Esatto, l'Unione Europea come Zanzibar, no, anche se vai in Austria. Che la proposta sia italiana, mi dispiace, perché Italia uguale tassa. Italia uguale tassa. E vabbè. Sentite, noi abbiamo tra poco Matteo Richetti del Partito Democratico per parlare anche di questa cosa degli statuti dei partiti, cioè sono delle proposte di legge e anche un po' del Partito Democratico, è inevitabile oggi. A proposito di garanzie interne dei partiti, perché se ci fossero le garanzie esterne uno potrebbe battersi per avere dei partiti che hanno delle misure specifiche per la trasparenza. Esatto, tra poco. Quello che è passato adesso col caro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Una, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Potrebbe diventare così l'Unione Europea. L'Europa, capito? L'Europa. Un fiorino. Entrate nell'Unione Europea, 50 c'è euro. C'è dei mendicanti. L'idea di amministrazioni pubbliche mendicanti. Questo è. Ecco, eccolo là. Ecco. È assatanata di entrate. Chi siete? Un fiorino. Un fiorino. 50 euro. La Repubblica di San Marino, 50 euro. Amici svizzeri, vi spolpiamo presto. Vi spolperemo presto. Bisogna trasferirsi tutti in Svizzera. Dai. Ecco, basta. Ecco. Allora vogliamo Comune di Roma, il lavoro in comune ci stanca, cure antistress in orario d'ufficio, vogliamo chiedere 50 euro per questa nostra superiore civiltà. Sul messaggero notizie dal Campidoglio, il capisci? Lavoro in comune ci stanca. Chi lo chiede? I dipendenti, no, e c'è un corso antistress in orario d'ufficio, perché l'idea era di Ignazio Marino che ha detto sì, ma dai, cioè 50 euro, ma... 50 euro dell'Unione Europea, ma va bene. Matteo Richetti è italiano, è onorevole del Partito Democratico, fa parte dell'Unione Europea, quindi non dovrà pagare mai 50 euro. Ha sentito, Richetti? Buongiorno. Buongiorno. Siete più forti di Troisi e Benigni, voi questa mattina siete tassatore. Carichi come due molle. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Richetti. Allora, Richetti è il relatore di un testo che da martedì sarà in commissione a Montecitorio per, possiamo dire, per la trasparenza dei partiti? Sì, è diventato l'elemento principale, nel senso che mi sono trovato a gestire 18 testi di progetti di legge che vertevano a vario titolo sui partiti, la personalità giuridica, le primarie, interventi sui funzionamento, regolamenti. Io ho ritenuto di lavorare prevalentemente su quello che mi sembra il dato che sta mettendo più in crisi la ormai al lumicino credibilità dei partiti, cioè il fatto che mentre si fanno norme che secondo me giustamente superano il finanziamento pubblico per andare verso il finanziamento quasi esclusivamente privato, allo stesso tempo con la stessa determinazione non si fa chiarezza, non si dice, non si mette l'obbligo di dire dove vengono questi soldi, ad esempio, oppure si fa un gran parlare di selezione delle candidature primarie, chi candida chi, ma poi non si fa nulla per obbligare i partiti a dire agli elettori: noi ci chiamiamo così, il simbolo è di Tizio, le scelte le prende Caio, gli organismi sono questi, cioè quegli elementi minimi che consentono ai cittadini di valutare i partiti su come operano. Per esempio, una cosa che mi ha incuriosito è che per le erogazioni da 5.000 euro in su, colui che dà i soldi e colui che li riceve, quindi il partito, sono tenuti a fare dichiarazione congiunta. Cioè questo per tracciare tutto quello che viene dato ai partiti, no? Sì, oggi esiste un doppio sistema di finanziamento dopo le varie superfettazioni che la legge ha fatto, cioè il tesoriere fa dichiarazione congiunta con Matteo Richetti che versa soldi al partito, oppure il donatore fa un versamento tracciabile e quindi la stessa certezza di ricondurre rispetto all'iscrizione a bilancio dei soldi del partito, ma c'è un punto che in entrambe le modalità basta che Matteo Richetti neghi il consenso alla pubblicazione di soldi e nessuno impara che Richetti ha dei soldi del partito. Questo vale per tutti gli importi, sapendo che oggi la legge pone un tetto massimo di erogazione liberale da privato di 100.000 euro. Però lei capisce che ci sono importi anche significativi, no? Chi dà 40, 50, 60 persone fisiche e persone non fisiche ad un partito, credo che sia giusto sapere chi decide in via, per me del tutto lodevole, di finanziare e sostenere la politica, ma se lo fa con assoluta trasparenza. E quindi questa legge pone alcuni elementi, dopo un lungo studio delle leggi sulla privacy che fino a questo punto hanno fatto giurisprudenza, degli elementi di diversificazione. Cioè, ovviamente non arrivo a dire che chiunque quando va alla festa del PD di Modena e mette 10 euro nell'urna deve dare la liberatoria per dire che quei soldi, perché sennò diventiamo matti. Per i piccoli importi non è necessario questo tipo di pubblicazione, ma da 5.000 euro in su sì. Da 5.000 euro in su si fa con il consenso dell'interessato, ma la legge pone che da 15.000 euro in più questo consenso non può essere negato. Cioè quando l'importo diventa significativo, e questa secondo me è la vera cosa. Cioè che chi riceve il denaro deve dire lo voglio ricevere, insomma. Soprattutto chi lo dà non può negare la pubblicazione, perché è un importo talmente rilevante che prevale il diritto alla trasparenza su quello della privacy. Lo trovi giusto? Mi sembra una cosa giusta, sacrosanto. Cioè chi dà più di 15.000 euro sa che verrà, che sarà una notizia questa. Bisogna. Io posso chiedere a Richetti due punti. Sì. Primo riguarda le fondazioni, che gli uomini politici, le correnti e quindi i partiti quanto tale. Noi non abbiamo un meccanismo di legge nazionale. Io vorrei una legge sui partiti. Secondo me l'applicazione della Costituzione dovrebbe prevedere una legge. Vorrei una legge alla tedesca, quindi con delle fondazioni serie, distinte dai partiti e che possono dare i soldi per alcune cose e per altre no. Però sta di fatto che nella Seconda Repubblica le fondazioni sono proliferate per gli uomini politici e correnti. Su questo il suo testo che prevede. Secondo, non è il caso di uscire da questa ipocrisia per cui i partiti come i sindacati sono associazioni private e quindi nessuno, se viene cacciato, perde o vengono contraffatti un congresso e viene buttato fuori, può appellarsi, certo può andare dal giudice, ma può appellarsi a una forma giuridica precisa che garantisca un minimo di democrazia e trasparenza all'interno dei partiti, anche nel meccanismo decisionale. Perché no, secondo lei? Ma Danilo pone una questione che è dirimente e che ha visto due mesi di approfondimento mio personale che mi ha fatto arrivare ad alcuni convincimenti. Il primo sulle fondazioni. Se noi non introduciamo un criterio chiaro per stabilire cos'è fondazione politica, beh, allora se io chiedo a Milan e Giannino di farmi una fondazione, un'associazione che raccolga risorse e faccia attività, io non sono formalmente coinvolto, quell'associazione non viene in nessun modo intercettata dalle regole di funzionamento e di finanziamento. Per cui, cioè, che criterio utilizziamo? Che ne deve far parte il politico? Che i fondatori devono essere iscritti? L'unico criterio è quello che poneva Giannino, cioè che sia un'emanazione diretta del partito, che utilizza quella fondazione per fare formazione, studio, fundraising in maniera chiara e trasparente. Questa legge non c'è. Io credo che se non la facessimo in Italia non la utilizzerebbe assolutamente nessuno, perché quello che sta accadendo è che anche i 5 Stelle che chiedono la legge contro le fondazioni dei politici oggi si prestano a fare una fondazione per raccogliere risorse, perché dopo, ahimè, la morte di Casaleggio si stanno ponendo giustamente il problema di come vive il movimento. Io, siccome è una questione che ho tenuto aperto nella fase di emendamenti, discussione, cioè io sono disponibile a valutare la modifica in questo senso, ma sono molto sincero, la vedo una modifica strutturalmente con scarse fondamenta nel funzionamento e nella cultura politica del nostro paese. Il secondo aspetto sulla personalità giuridica. Quindi, per dirla, restiamo d'accordo sul fatto che rimarrà un canale opaco di finanziamento e organizzazione della politica, perché le fondazioni ci sono, lo sappiamo, cioè ogni politico ne ha una, chiuso parentesi. D'accordo, ma secondo lei, Giannino, io dovrei regolamentare anche, che so, la fondazione di D'Alema in quanto ex politico di 10 anni fa, o quella ad esempio sarebbe sostanzialmente esclusa da una regolamentazione sulle fondazioni politiche? No, secondo me occorre un intervento organico per il quale se le fondazioni sono partecipate, controllate o organizzano attività, queste tre cose, partecipate, controllate o anche se organizzano, quindi coi prestanome, attività di tipo politico, devono ricadere nella normativa generale del finanziamento della politica, perché altrimenti credo che la proliferazione a cui abbiamo assistito è una proliferazione che oltretutto fa male ai partiti, alla trasparenza e alla democrazia interna dei partiti, perché queste sono le cose attraverso cui le correnti decidono nei partiti e si fanno le campagne elettorali raccogliendo i soldi con quello, non con quelle dei partiti. Lo sa meglio di me che funziona così. Il ragionamento che ho appena fatto, secondo me, è quello che dimostra che serve una legge dedicata ad hoc. Esatto. Io ho deciso di affrontare una legge che regolamenti i partiti, perché oggi c'è un doppio canale appunto di attività politica e quindi di possibile opacità. Uno lo saniamo, io credo, in via definitiva dal punto di vista del suo funzionamento. L'altro, serve una decisione politica del Parlamento, che non posso assumere singolarmente, di aprire la discussione che hai appena aperto. Sul tema invece dei partiti, della personalità giuridica, devo dire che oggi io vedo due opportunità e due rischi. Il primo è che attribuendo personalità giuridica ai partiti, noi abbiamo 400.000 iscritti, che so, del Partito Democratico, che sono davanti al giudice perché non gli è arrivata la convocazione delle primarie, quella del congresso, e come giustamente illustrava Giannino prima, a quel punto non sono più gli organismi di funzionamento, garanzia e risoluzione dei contenziosi dei partiti, cioè i Probiviri, l'Istituto dei Garanti, che dice sì, no, quella cosa è valida o no. Ma c'è un continuo ricorso alla magistratura, con in più una cosa che voi conoscete bene, cioè il fatto che con la personalità giuridica ci può essere l'azione autonoma della magistratura. Cioè, oggi la magistratura può intervenire solo a fronte al fatto che Milano, Ricchetti dicono: guardate che a Fiorano non mi hanno fatto partecipare e chiedo il rispetto delle regole del PD. Domani se un magistrato valutasse che secondo lui l'assemblea di quel partito non si è svolta secondo quanto lo stesso partito ha stabilito, Potrebbe intervenire. Io sono d'accordo. È chiaro che le leggi servono a regolamentare, si inseriscono in un tempo. Cioè, io non sono un riformista liberale, non credo nell'astrazione della normativa e credo che questa decisione oggi... Basta sì. Guardare, finita la nostra chiacchierata, un po' di trasmissioni mattutine, e ponga elementi di riflessione molto seri. Ecco. Unita al fatto che oggi, lo ricordava Giannino, ci sono moltissime situazioni davanti a un giudice anche in assenza di personalità giuridica. Cioè, laddove si voglia chiamare in causa la magistratura straordinaria. Basta vedere cosa è successo a Roma, cosa è successo nel PD, cosa è successo nei 5 Stelle circa le esclusioni, l'utilizzo del simbolo delle liste. Questo si è possibile. Può fare. Richetti, però abbiamo un minuto e mezzo. È chiaro che l'attualità incombe. Nel PD c'è una questione morale e ci deve essere imbarazzo anche per l'ultimo arresto di Lodi. Lei che pensa? Io imbarazzo non lo provo, ma spero di non scandalizzare nessuno. Io credo che nel PD manchi una discussione, non una questione morale. Cioè, la discussione è legata al fatto che quando sei un partito così baricentrico, e fatemi dire anche senza elementi di giudizio, insomma, forse l'unico perno attuale della situazione politica, non puoi sottovalutare il fatto che sei in maniera esponenziale oggetto di attenzioni, relazioni, lavoro di lobby, anche possibile avvicinamento di infiltrazione e criminalità. Allora significa avere la consapevolezza di giocare un ruolo diverso, di avere una presenza diversa nella società, che non è più solo un soggetto che ha antagonisti della politica, ma un soggetto a cui si rivolgono con particolare attenzione, e devi avere la capacità di lettura critica che rischi di non avere, anche di portatori di interessi che prima avevano sistema di relazioni con la politica diversa. Cioè, diciamo, troppo potere concentrato paradossalmente in un unico partito in questo momento può portare troppa attenzione. Ecco. Lecite e illecite, lo dico con grande tranquillità, lecite e illecite alle quali prestare più attenzione di quanto non facevi ieri. Va bene, intanto noi la ringraziamo e ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Matteo Richetti del Partito Democratico. E prepariamoci con i collettori alle frontiere. 50 un euro. Fiorino, 50 euro, un fiorino, un fiorino. Ma dai, magari non passerà, Oscar. Ma cioè, io mi auguro che non passi, perché vedere l'Italia. Poi a qualunque dice, ma chi l'ha deciso? Renzi l'ha chiesto. Pensa un po' che bella campagna. I tedeschi sarebbero sistematici, metterebbero il cartello. Tassa Renzi da pagare, ma roba da Fiorino Renzi, Fiorentino, non il Fiorino. Il Fiorentino dovete pagare. Va bene, dai.